Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, sono le 8:19 minuti, ci siamo anche oggi. Sono le 18 minuti, perché mi vuoi rubare qualche secondo di questa preziosa vita? Guarda, aspetta, 4, ecco, 3, però intanto, 2, come vedi, 1, 8:19 minuti in questo istante. Perché ogni giorno, purtroppo, i fatti ci testimoniano quanto sia preziosa la vita e quindi io, contratti o non contratti rinnovati di Radio 24, cari ascoltatori, qua non ci rinnovano i contratti, però noi siamo qua ad assaporare ogni secondo della nostra vita. Oggi, tra i tanti santi di questo giorno in cui però, insomma, ricordiamo il padre ucciso ieri, secondo me padre Jacques Hamel, sai che ieri hanno subito proposto di farlo santo al Papa, comunque detto questo, tra i tanti santi di oggi, Antusa, Bertoldo, Celestino, Fronimo, Galattorio e San Pantaleone. San Pantaleone è il patrono dei medici e pensa che quando, oimè, fu martirizzato, gli inchiodarono, questo dice il martirologio che lo riguarda, le braccia da medico con cui aiutava anche pazienti poveri che non avevano i soldi per pagarlo. Siamo nei primi secoli del cristianesimo, gli inchiodarono le braccia sul cranio e lo decapitarono, una cosa terribile. Tra le cose capitate negli anni alle nostre spalle in questo giorno, nel 1993 la notte degli attentati mafiosi, quindi San Giorgio il Velabro e San Giovanni il Laterano a Roma, e purtroppo a Milano la bomba via Palestro che portò a 5 persone uccise. Chi compie gli anni oggi? Alcuni come Peppino Di Capri. Questo per chiudere con un sorriso, voglio dire, perché altrimenti... Perché adesso apriamo invece la solita pagina dolorosa. Insomma, ogni giorno, ogni due giorni qua bisogna parlare di purtroppo attentati. Lo facciamo anche con voi se ci chiamate all'800 24 00 24. Io non lo so te, Oscar, ma sento, come ho detto in apertura alle 6:30, il peso anche di misurare le parole in un momento in cui io per primo da tempo dico e contesto tutti coloro che dicono la religione non c'entra. Mi sembra quasi che non vedano l'ovvio. Però dire la religione c'entra non vuol dire è una guerra di religione. Sono due cose completamente diverse. Vuol dire non essere ciechi di fronte a un problema che c'è. Dopodiché la risposta non è la guerra di religione. Non replico, ne aggiungo, perché sono d'accordo con te. Ed è molto diverso, è molto difficile stare sulla linea rossa di usare parole sempre più operate. In altre parole, la dimensione dell'attacco alla sicurezza che viviamo è una dimensione che ha bisogno di risposte diverse, di strumenti diversi, di risorse enormemente maggiori di quelle che ci sono nei bilanci, di grande attenzione, come è evidente se siamo al punto di uno che esce dalla galera perché ha tentato di andare in Siria, più che attenzionato, notissimo, al braccialetto elettronico, poi va in una chiesa e track, come vedete. Lì è una questione di controllarlo. La dimensione della sicurezza ha bisogno di tutto questo in più e non c'è ancora. Bisogna essere duri con tutti questi che sono identificati e che c'è bisogno di identificare, però se noi dichiariamo la guerra all'Islam, facciamo il gioco al califfato. Assolutamente, sono d'accordo, non è una guerra di religione. E quando dicono la risposta quale deve essere, io confido, non lo so, che ci sia un giorno, un domani, l'illuminismo che noi abbiamo vissuto proprio a partire da quella Francia duramente colpita, che ha capito con l'illuminismo che bisogna dividere tra uno stato laico e invece il potere della Chiesa, che si esercita nelle chiese con la fede. E forse arriverà un giorno anche una sorta di illuminismo per l'Islam, forse potrebbe essere questa l'attesa, la speranza che dobbiamo avere, cioè capire che in quegli stati... Nei lunghi secoli dell'Islam ci sono stati lunghissimi tratti della storia in cui è stato il potere politico laico che ha guidato gli stati islamici. Voglio dire, nel Novecento tutto la caduta del colonialismo avvenne con un panarabismo nazionale che era tutto figlio di una cultura in cui l'Islam, insomma, c'era come religione, ma non era la Sharia, ecco, per essere chiari, certo, a dominare la vita di quei paesi, in tutto Nord Africa così, l'Egitto di Nasser, il Marocco, l'Algeria e così via. Poi la storia torna indietro, questi vogliono tornare indietro, ma rispetto alla stessa storia dell'Islam. Il problema però è che nelle comunità che stanno qua, il mix di giustamente chiedere una cooperazione aperta contro ogni forma di radicalismo, perché guarda che anche i musulmani qui hanno paura oramai di esporsi, come no. E dall'altra essere duri nel perseguire ogni possibile radicale, tutto questo senza regalare consenso tra centinaia di milioni di islamici nel mondo a Daesh, ecco, questo è il compito difficile che aspetta le istituzioni oggi. Hollande ha parlato, ha detto che siamo in una guerra, che questa guerra, ha promesso, verrà vinta dalla Francia, verrà utilizzato ogni mezzo, e qui la Francia si dovrà veramente interrogare. Mi pare di capire, Oscar, che l'unità nazionale non c'è più, nel senso, altro che unità nazionale, appunto, questo aveva il braccialetto elettronico, fino a marzo era in carcere, a Nizza si è scoperto che insomma il controllo della Promenade des Anglais era nullo, se non molto... Poi per esempio ho visto labile. Ieri scendere in campo Sarkozy con dei toni durissimi, come a scavalcare a destra questo problema presidenziale del Fronte Nazionale. Però Sarkozy, voglio dire, con quello che ha fatto quando era presidente, vedi Libia, Gheddafi, eccetera, eccetera, ma non so se dobbiamo prendere lezioni adesso da lui. Adesso si parla, qualcuno dice, ci vuole una Guantanamo per i jihadisti. Ecco, questi proclami non lo so se sono la risposta esatta. Comunque Hollande ha parlato, vogliamo sentirlo. Face a un gruppo Daesh che nous a déclaré la guerre, nous devons mener cette guerre par tous les moyens, dans le respect du droit. Ce sont les catholiques qui ont été frappés, tous les catholiques. Tutti i cattolici che sono stati colpiti, Daesh ci ha dichiarato guerra, ma questa guerra, giura Hollande, la vinceremo. Ieri ha detto Hollande, chi ha colpito il prete ha oltraggiato la Repubblica. Ma detto, la storia della Repubblica francese è un po' diversa da questa. Mi ha molto colpito il fatto che... essendo in crisi lui personalmente come leadership da tanto tempo, cavalchi anche un tono che non è esattamente quello tipico dello statista francese. Insomma, la storia della modernità francese, la rivoluzione francese in avanti, non è esattamente, è anzi la guerra dello stato laico alla religione, al peso che aveva nella formazione della monarchia nazionale francese. Però sta, di fatto, però sta di fatto che ieri per la prima volta, sì, e tutti ovviamente lo segnano e lo segnalano, il Corriere della Sera lo fa, vedi, con il titolo "Il terrore colpisce in chiesa" e sopra mette la data 26 luglio 2016, cioè come dire, cari lettori, c'è un prima e c'è un dopo. C'è un prima e c'è un dopo. 26 luglio 2016 l'ISIS ha colpito per la prima volta non solo l'Occidente, ma anche in uno dei suoi simboli religiosi. E ricordiamo chiesa... che la stampa, per esempio, secondo me fa altrettanto bene a mettere in fila, penso per non dimenticare, che di sacerdoti non in Europa ma a cominciare in Turchia, Andrea Santoro, certo. Luigi Padovese e così via, e altrove nel mondo, sono già stati nel mirino, hanno versato un tributo di sangue. Però questa volta in Europa, durante una messa con il parroco sgozzato sull'altare, cioè i simboli hanno anche una loro valenza. Ne vogliamo parlare con voi ascoltatori. Abbiamo convocato anche due ospiti, Lucetta Scaraffia, che è editorialista dell'Osservatore Romano, buongiorno, è storica. Buongiorno. Salutiamo anche Sergio Luzzatto, che insegna storia moderna a Torino, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno professor Luzzatto. Eccoci. Buongiorno. Scaraffia, qual è la novità potente, simbolica, nell'avere colpito una chiesa, nell'aver colpito un parroco che celebrava messa, secondo lei? Secondo me è quella di costringerci ad accettare quello che i terroristi islamici dicono da anni, cioè che loro fanno una lotta contro i crociati, che è il nome con cui chiamano i cristiani, cosa che noi abbiamo sempre voluto negare. Noi abbiamo detto, quando c'è stato Charlie Hebdo, che l'attacco era alla libertà di pensiero, quando c'è stato il Bataclan e tutti i ristoranti, l'attacco era al nostro stile di vita in cui uscivamo la sera, donne e uomini insieme, la libertà, diciamo, di divertirsi, quando c'è stato Nizza, era l'attacco contro una festa civile, eccetera. Non abbiamo mai accettato questo messaggio che loro hanno fatto, perché in realtà la Francia non si sente cristiana e quindi non si sentiva attaccata, esatto, in quanto cristiana. Esatto. Però lei oggi lo scrive sul Messaggero anche, a dire che non bisogna cadere in questa trappola, mi sembra di poterla tradurre così. Secondo me non bisogna cadere nella trappola della guerra di religione, dire che è una guerra di musulmani contro cristiani. Perché non è vero, ci sono un mucchio di musulmani che non hanno nessuna intenzione di farci guerra e che vogliono solo vivere d'accordo con noi, la maggior parte dei musulmani. Quindi non è giusto, e loro invece in questo modo vogliono che noi a un certo punto diamo tutti i musulmani, e so che ieri sono già successi degli episodi molto antipatici, piccoli, ma di vendetta, diciamo così, verso negozi di musulmani o cose del genere, quello che vogliono i terroristi. Noi dobbiamo resistere a questa stupidità di dire c'è la guerra contro i musulmani, però al tempo stesso dobbiamo dire la verità, cioè dire sì, loro stanno facendo una guerra che per loro è una guerra di religione, noi non l'accettiamo questo tipo di definizione, mentre invece non lo diciamo, noi continuiamo a dire che è una guerra contro il nostro stile di vita, la nostra libertà, i nostri valori, e questo crea una situazione di falsità che poi viene distolta dalla realtà. Il fatto di ieri lo rivela. Interessante questo squilibrio, cioè Oscar ci dice la professoressa Scaraffia che se magari non è per noi una guerra di religione, non lo deve essere, però per loro, per coloro che colpiscono, insomma, la vivono come tale, la vivono come un attacco ai crociati. Posso proprio su questa scorta, su questo intreccio tra un'ipocrisia che cade, tra la distinzione tra laicità e attacco alla radice cristiana europea e occidentale. Professor Luzzatto, io la seconda anno ho letto tutto quello che ha scritto, credo, e quindi lei quando andò a specializzarsi andò esattamente in Francia ed ci ha regalato una lettura della rivoluzione francese, di Robespierre, eccetera eccetera, molto molto interessante. Proprio per questo l'abbiamo chiamata oggi, tra l'altro, professor Luzzatto, perché questa doppia caduta di un'ipocrisia, non ci sentivamo immedesimati nella radice prima qaedista e adesso del Daesh, religiosa, di questo pezzo di attacco a noi. Dall'altra parte poi, quando entrano per la prima volta in una chiesa europea e sgozzano un prete, è come se ne cadessero due di ipocrisie: da una parte la sistematicità e la durezza degli attacchi portati negli ultimi mesi sul territorio europeo ha fatto cadere ogni sicurezza agli stati laici, dall'altra anche il capo della sinistra che governa lo stato più laico di tutti, cioè la Francia, deve ammettere profanare un prete e profanare la Repubblica. C'è stata questa doppia ipocrisia anche secondo lei, professor Luzzatto? Io penso assolutamente di sì, e penso che in effetti una delle cose che è entrata in crisi negli ultimi tempi, in una crisi visibile perché probabilmente era in una crisi latente già da tempo, è proprio il modello francese di città. Cioè non dobbiamo nasconderci, io ho abitato molti molti anni in Francia, i miei figli sono stati scolarizzati in Francia, ho seguito tutto il loro corso di studi in Francia. Cioè in Francia la religione, per una serie di ragioni, è un tabù. E naturalmente le ragioni sono storiche, per certi aspetti questa idea di escludere l'elemento della fede, della religione dalla vita civile ha potuto sembrare una soluzione proprio per sanare delle paghe secolari di divisione della società francese che risalgono per l'appunto alla rivoluzione francese. Però inevitabilmente, diciamo, forse, o comunque in ogni caso evidentemente, i ragazzi che oggi commettono queste cose terribili, non da oggi, da due anni, e che hanno reso la Francia una terra di sangue, ormai dobbiamo dire le cose come stanno, sono dei ragazzi che non si riconoscono in quel modello. Ma è tutta la società in Francia che rifiuta di riconoscere la religione come un elemento della vita civile. I francesi non hanno neanche diritto a raccogliere statistiche sull'origine culturale e etnica della loro popolazione. E a forza di fare come se l'elemento religioso, sia nei suoi elementi naturalmente virtuosi, eccetera, sia nei suoi ingredienti divisivi, a forza di far finta che la religione non esiste nella vita civile, i risultati sono questi. Accidenti, però io vorrei capire. Vorrei che i nostri ascoltatori sapessero, se per caso sì, non hanno mai letto niente su Sergio Luzzatto, che il professor Sergio Luzzatto è tutt'altro che un cattolico intransigente integralista, certo. Cioè viene da una matrice laica, di sinistra, eccetera, però parole pesanti come pietra. Però io vorrei capire, anche tornando un attimo alla professoressa Scaraffia, cosa bisogna fare, cioè, per evitare di scendere su quel piano in cui vorrebbero trascinarci, cioè quello della guerra di religione. Però una risposta bisogna dare. Hollande dice dobbiamo vincere questa guerra, si parla ovviamente del tema della sicurezza, che forse è stata affrontata in maniera un po' troppo labile in Francia, però tutti vanno oltre e dicono: beh, e che facciamo? Attendiamo? Facciamo una risposta militare? Facciamo una risposta culturale? Una qualche risposta a una guerra che ci è stata scatenata contro, dobbiamo darla. Sicuramente quella di fare dei servizi di sicurezza, cercare che i servizi di sicurezza funzionino meglio, è la prima, perché pare che uno dei due attentatori avesse il braccialetto, no? Di sì, quelli elettronico. E quindi il braccialetto elettronico, e va lì a fare un attentato, c'è qualcosa che non funziona, oppure la mancanza di poliziotti a Nizza che sta venendo fuori in modo evidente. Quindi è evidente che c'è una falla nei sistemi di sicurezza francesi e probabilmente anche nei sistemi di spionaggio, insomma, perché se no avrebbero forse potuto cogliere qualcosa, queste cose in internet, in queste reti si dovrebbero cogliere. Però questa è la prima cosa, rafforzare molto questo sistema. Però io penso anche che una cosa che serve molto è dire la verità. Dire la verità, però, come ha Luzzatto detto prima, in un paese come la Francia, che finge di non avere radici cristiane, di non essere cristiano, è molto difficile. Noi abbiamo sentito che Hollande, in prima battuta, appena si è recato in questo paesello, ha detto sono vicino alla comunità cattolica francese, come se fosse una minoranza da proteggere, cioè come se non fosse stata attaccata la Francia. Ora, quando quando è stato assalito Charlie Hebdo, non ha detto sono vicino a tutti gli umoristi francesi, cioè è stato curioso, ha preso le distanze immediatamente dalla religione. C'è un bisogno tremendo di negare una radice religiosa e quindi di negare il carattere religioso degli attacchi. Ma non c'è proprio il rischio che altrimenti, se lo avesse subito sottolineato, ci sarebbe stato il rischio di incorrere in quello che lei stesso dice che non dobbiamo fare, cioè... No, perché la verità è la verità, cioè non possiamo dire bugie per evitare un pericolo, dire loro stanno facendo una guerra di religione, noi non l'accettiamo, noi non combattiamo contro i musulmani, noi combattiamo contro una minoranza di terroristi molto pericolosa, ma noi non accettiamo il loro piano. Se noi lo diciamo molto chiaramente e prepariamo le persone a questo e gli spieghiamo che anche se non sono più religiosi da tre generazioni, comunque noi abbiamo una radice identitaria cristiana, forse è meglio, anche perché altrimenti non si capisce nulla di quello che succede, e allora altrimenti persone come Marine Le Pen hanno buon gioco a dire la verità, perché poi Marine Le Pen alla fine è l'unica che dice no, guardate che ci attaccano come cristiani, guardate che, e la gente capisce che lì c'è la verità. Poi naturalmente Marine Le Pen vuole lo scontro. Sì. Pensa che lo scontro sia l'unica cosa possibile, ma non c'è nessuno di quelli che giustamente non vogliono lo scontro che dicono la verità, e quindi questo li rende poco credibili agli occhi di una popolazione che invece vede benissimo quello che sta accadendo. Oltretutto, dopo il caso di questo parroco, è talmente clamoroso che non si può più negare. Esatto. Domanda al professor Luzzatto, sempre andando avanti nel palleggio tra voi, se la destra populista, scusi, io semplifico, appare al numero crescente di europei e di occidentali come quella che dice la verità, usa toni e usa argomenti che non eludono il problema frontale, posso, al terrorismo islamista. Quanto dipende dal fatto che la sinistra, la sua identità laica, di una comunità che integra, eccetera, eccetera, non riesce a liberarsi, non di errori, perché non sta a me giudicarli, ma di ciò che poi nella storia, di fronte all'attacco islamista, eccetera, eccetera, mostra non funzionare? Non c'è un grande problema, non solo di inadeguatezza di quanto spendiamo per la sicurezza, ma di un pezzo di cultura su cui abbiamo fatto affidamento dall'inizio del Novecento e che si dimostra non in grado di fronte alla brutalità elementare di alcuni attacchi che vengono a minare una cosa che non funzionava già nell'Occidente per i fatti suoi. E io temo che questa sia una delle ragioni per cui alla fine i populisti di diverso tipo, di diverso colore, però dall'Italia alla Francia, all'Austria, alla Polonia, all'Ungheria, a Trump negli Stati Uniti, siano lì per raccogliere il frutto. E come si risponde dal punto di vista storico-culturale dall'altra parte, professor Luzzatto? Lo so, domanda enorme, però... Sì, domanda enorme. Io credo che la parola chiave, non tanto come soluzione quanto come problema e quindi come difficoltà da interpretare, problema da risolvere, è proprio la parola comunità che lei ha nominato, che la professoressa Scarafia ha nominato, eccetera. Allora, la verità è che nel mondo attuale, la verità, quella che mi sembra diciamo essere una cosa da sottolineare, è che nel mondo attuale le comunità si stanno moltiplicando. E si stanno moltiplicando fino a tesamente piccolo, perché tutti i social network, tutte le maniere in cui noi stiamo insieme, loro stanno insieme, i nostri ragazzi stanno insieme, che cosa fanno? Investono su comunità sempre più definite, eventualmente sempre più piccole o più grandi, questo poco importa. Ma da questo punto di vista questa società orizzontale, liquida, la chiamiamola come vogliamo, è sempre più fatta di comunità che sono costruite sulla, diciamo, un massimo di investimento sui propri caratteri originali o definitori e diciamo l'esclusione delle altre comunità che o non interessano o sono qualificate come nemiche. E tutto questo è reso straordinariamente nuovo e potente dalle nuove tecnologie, dalla maniera diversa che nel passato in cui si sta insieme o si sta separati. E questo è dimostrato anche dall'efficacia dei social network nella cosiddetta radicalizzazione rapida di questi ragazzi, eccetera, eccetera. Per cui non è soltanto, no, vede, credo, non sono soltanto le parole del Novecento o gli slogan politici del Novecento, della destra o della sinistra, che sono consunti, ma sono proprio le nostre coordinate sociali che vengono minacciate da questi nuovi modi di stare insieme o di odiarsi. Ecco. E da questo punto di vista io sono d'accordo con la professoressa Scaraffini che l'attentato di ieri, visibilmente sgozzare un pietre su un altare, è il segno che per esempio loro sono in guerra contro la comunità cattolica e cristiana. Il problema è che sono in guerra anche contro tante altre comunità. Charlie Hebdo è la comunità dei pensatori, sì. Il Bataclan è la comunità dei ragazzi che vogliono divertirsi. L'attacco ai supermercati Kosher, ricordiamo. Kosher è la comunità ebraica, i ragazzi dei signori e della Promenade des Anglais è la comunità della Movida. E quindi in realtà tutte queste comunità si stanno moltiplicando perché non soltanto loro le riconoscono come comunità nemiche, ma ciascuna di queste comunità ha sempre meno a che fare con tutte le altre. Ma anche nella maniera più pacifica, e quindi il problema della destra o della sinistra o di tutti in realtà è di capire quale può essere la nuova forma di coesione sociale in un mondo che non soltanto è globale ma è sempre più agglutinato intorno a queste comunità che in realtà sono delle volte definite o da messaggi di morte come quello dell'ISIS o da diciamo ingredienti che molto più sfuggenti o inutili o vacui. E non ci sono più, diciamo, dei progetti, delle prospettive che possano tenere insieme delle comunità più larghe. Allora, noi dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità, ma un paio di minuti. Poi molte persone, ovviamente, vedi Oscar, dicono vogliono essere più brutali. Insomma, diteci da che parte state, sì, la mettono state in maniera frontale, le crociate. Beh, partite voi, io non ci vado, i miei figli non ce li mando, insomma, che non vuol dire essere e che non vuol dire che i nostri figli non siano poi che mi devono venire a sgozzare. A prescindere da noi. Però se la risposta pensate che sia le crociate, vabbè, insomma. Le abbiamo già fatte, insomma, non penso che alcuni ascoltatori dicono: ma tu sei per i tagli e perché poi vuoi più spese per la difesa? No, proprio per chi vuole, un po' chi è liberista come me, vuole che lo Stato adempia le sue funzioni essenziali, la vita, la sicurezza e la libertà. Lì servono le risorse. Tra un attimo riprendiamo. Allora, caro Oscar, alle 8:43 minuti, siamo qui con la professoressa Lucetta Scaraffia, col professor Sergio Luzzatto. I nostri ascoltatori ci chiamano, Antonio ci chiama da Alessandria, per esempio. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milan e dottor Giannino. Ascoltate, io vorrei lasciare una mia considerazione che magari a prima vista lascerà un po' tutti perplessi, ma vorrei che qualcuno ci riflettesse un attimino meglio sopra. Io sono d'accordo sul fatto che il mondo musulmano ha bisogno di illuminismo ed è lontano da noi qualche secolo. Non sono invece d'accordo nel considerare questi avvenimenti di questi giorni come una guerra di religione. Attenzione, qui c'è qualcuno, macchinato da qualcun altro, che vuole costringerci a tornare in Medio Oriente a fare una guerra come quella che è stata scatenata dopo l'attacco alle Torri Gemelle e che ben sappiamo in questi giorni che alla fine, vedi Blair che rischia una condanna, siamo stati trascinati lì senza motivazioni. Non vorrei che qualcuno stesse macchinando tutta questa cosa qui, organizzata a dovere con servizi segreti magari anche occidentali, per costringere l'Occidente in questo caso a canirsi sulla Francia, la cui opinione pubblica rispetto a quella americana e quella inglese ha ancora voglia di andare a fare una guerra in Medio Oriente, mentre gli inglesi e gli americani probabilmente sono un po' stufi ormai di fare una guerra. Ci vogliono trascinare in una guerra. Ci vogliono trascinare in una guerra, perché se fosse un problema religioso, qui abbiamo milioni di musulmani, dovremmo cominciare a preoccuparci veramente se si trattasse di un problema religioso. Va bene, Antonio, questa è la sua riflessione. La giro la professoressa Lucetta Scaraffia anche con l'aggiunta: il Papa come ha reagito e cosa dice? Lei che insomma è un po' più vicino a noi del Papa. Guardi, il Papa ha reagito dicendo appunto: noi non rispondiamo alla violenza con la violenza. È stata fatta una violenza a un sacerdote, ma noi vogliamo solo la riconciliazione e il perdono. Questa è la risposta che in fondo dovremmo dare tutti noi, nel senso di dire, non possiamo dire non è una guerra di religione in modo così netto, perché per il Daesh è una guerra di religione, allora noi dobbiamo dire per loro è una guerra di religione, per noi no, distinguere le due parti, noi non accettiamo di viverla come guerra di religione significherebbe conflitto con tutti i musulmani, per noi è una guerra contro il terrorismo. E quindi noi la combattiamo come guerra contro il terrorismo. La guerra contro il terrorismo non significa aprire una guerra in Medio Oriente, significa combattere il terrorismo a casa nostra in modo molto più efficace di come abbiamo fatto finora. Però significa che i musulmani pacifici e laboriosi che vivono accanto a noi devono essere trattati come fratelli e non come nemici potenziali. Mentre invece nelle nostre comunità, nelle nostre vite, nei nostri paesi un po' sta serpeggiando questa così insofferenza verso tutti i musulmani. Questo è l'aspetto che va cancellato. Che va evitato. Va evitato perché rischio... quello che vogliono invece, quello che vogliono certo. I terroristi è quello che si arrivi alla guerra. Fabio ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Oscar, buongiorno. Ascoltate, io vado spesso in quei paesi tipo l'Egitto, così per mie ragioni, perché sono subacqueo e ho diversi amici da quelle parti, come ho diversi amici qui a Milano dove vivo che hanno attività e alcuni di loro sono cristiani copti e mi raccontano cose inenarrabili. Loro sono dovuti scappare dal loro paese perché sono perseguitati e sono una minoranza. Voi non sentirete mai parlare di attentati eseguiti, perpetrati da cristiani copti, ma non penso nemmeno sia una questione di religione, è questione che la religione è la loro vita, loro vivono secondo i dettami della religione. Per loro non scindono le due cose, la loro vita è quella. E quindi dice porta insitamente a un utilizzo della violenza più semplice rispetto a noi. Secondo me andrebbero rivalutate le parole di Oriana Fallaci. Ah, ecco, lì voleva arrivare. Secondo me sì, andrebbero un attimino rivalutate, malgrado fosse stata demonizzata allora perché tacciata come estremista dall'altra parte, quasi una Le Pen della penna e della macchina da scrivere, ma in realtà non aveva poi tutti i torti. Con questo non dico che bisogna demonizzarli tutti, perché io ne conosco tanti che non gliene frega nulla, però c'è sempre quel però che nessuno prende posizione sì, di loro. Io in realtà sono convinto, Fabio, posizione. Sono convinto che il 99% dei musulmani siano persone che come noi vogliono ambire a che cosa, Oscar? A vivere in pace, in tranquillità, in prosperità, a fare figli, a fare famiglie, a progredire economicamente, il benessere. Molti di quelli che non prendono posizione lo fanno per non mettersi a propria volta nel mirino dei radicalisti, dei radicali e degli estremisti che ci sono nelle comunità islamiche. Questo è il punto vero. Questo dobbiamo capirlo che è così. Significa giustificarlo? No. Però quello che mi colpisce è che molti di voi, sia dagli sms, dicono: ah, buonisti! Buonisti cosa? Cosa? Capite che proporre una moltiplicazione a tappeto delle risorse e gli strumenti da usare per identificare in rete ogni tipo di radicali, ma intervenire con durezza e chiarezza su questi elementi, questo è il modo vero per costruire sicurezza, non i proclami sulle crociate. Allora, dire questo, noi la pensiamo così, quindi daremmo una mano a chi, invece di far chiacchiere dei politici, dice: benissimo, queste misure di potenziamento per impedire che chi ha il braccialetto riesce al carcere, come vedete poi al primo angolo si infila in una chiesa e uccide il prete. Cosa diversa è dire: i bombardieri italiani si levano in volo per colpire popolazioni musulmane, e così occhio per occhio, dente per dente. vogliamo farlo il bilancio di impostazioni di questo genere, dove ci hanno portato? Ecco, e io non sono dell'idea, l'ascoltatore precedente che dice sono i servizi segreti dell'Occidente che ci vogliono portare in guerra. Ognuno si costruisce i complotti che vuole, non è così obiettivamente. Ah, beh, professor Luzzatto, quando si parla di Islam moderato è un'espressione che ha un senso logico oppure no, secondo lei? Ma guardi, io non sono uno specialista della questione dell'Islam né dell'Islam moderato. Credo che, diciamo, all'interno delle comunità islamiche, che sono a loro volta ovviamente divise a seconda della sensibilità del sunnita, sciita, salafita, eccetera, eccetera, si pongono dei problemi molto, molto ingenti, diciamo, di che cosa? Le guerre di religione, l'abbiamo detto finora, in realtà ci sono delle guerre di religione all'interno del mondo musulmano, e secondo molti osservatori sono soprattutto queste che spiegano le prove di forza che loro poi cercano di dare in Occidente. Ma al di là di questo, quando noi siamo storici, oggi avete consultato due storici per cercare di capire meglio il presente attraverso anche così la profondità di campo che viene dal passato. Non ho bisogno di ricordare a lei né al dottor Giannino, le guerre di religione hanno interessato anche l'Occidente. E quando si dice guerre di religione, si parla di crociate, cioè di scontri tra l'Islam e il cristianesimo. Si parla di guerre interne al cristianesimo. Sì. E ci si è sgozzati per anni sugli altari in nome dello stesso Dio in Occidente. E per fortuna da qualche secolo, o forse da un po' meno di così, non si fa più. Ecco. Allora, noi dobbiamo renderci conto che ci siamo passati anche noi attraverso tutto questo e abbiamo superato fino a poco tempo fa tutto questo attraverso un armamentario che era un armamentario culturale, fatto di parole come l'illuminismo, la tolleranza e quant'altro. Ma guarda, adesso, io ho iniziato proprio dicendo così, non da storico ma da profano, cioè forse dovremmo ambire e sperare in un illuminismo nell'Islam, prima o poi arriverà, no? Anche lì, o no? Non c'è dubbio, però nel frattempo qual è il problema nostro? Per così dire, ovviamente è un problema anche quello che succede in Egitto o anche quello che succede in Siria o quello che succede in Afghanistan, ma nelle nostre strade, nelle nostre chiese, nelle nostre scuole, nelle nostre vie, qual è il problema? Il problema è che, per parlare della Francia, ci sono 6 milioni di musulmani in Francia, 10% della popolazione, un'enormità, e una percentuale non trascurabile di questi 6 milioni di musulmani non si riconosce nello Stato francese. Esatto. Ecco, allora il problema è qui che poi i discorsi sulla sicurezza, così, di cui di nuovo non sono esperto, lasciano un po' il tempo che trovano, perché se parliamo di decine di migliaia o addirittura centinaia di migliaia di persone che non si riconoscono non solo in uno Stato, ma in un modello culturale e civile di convivenza, eccetera. Il problema è cosa facciamo di queste persone, certo, qua? Certo. Ed è qui che si ritorna al problema. Sono una comunità, lo dobbiamo riconoscere come tale, dobbiamo lasciare che si esprima attraverso i suoi valori, attraverso i suoi riti, eccetera, oppure come lo Stato francese ha cercato di fare da due secoli a questa parte? No, non ci interessa che siano una comunità, sono come tutti gli altri. Ma voi siete giornalisti, voi ci andate nelle banlieue, ma vi sembra davvero che in quei ghetti urbani i ragazzi vivano come i nostri figli? No, esatto. No, non vivono come i nostri figli. E io le posso dire, di nuovo, per testimonianza diretta, familiare, perché io ho avuto figli nella scuola pubblica francese per 15 anni e so cosa significa quel modello. I ragazzi, i bambini musulmani, sono discriminati a 7 anni, a 8 anni, e sono discriminati a 7-8 anni non, come si può dire, perché non possono andare a scuola, ma perché il ritardo che accumulano sui loro compagni è immediato. Immediato. E questo produce poi quelle disparità i potenziali poi sostenitori a centinaia di migliaia dei radicalisti estremi della rete islamista. È così. Allora, però, noi nel ringraziare la professoressa Lucetta Scaraffia e il professor Sergio Luzzatto non ci fermiamo qui, perché dopo il giornale radio continuiamo fino alle 9:30, quindi le vostre telefonate all'800 24 0024. Poi parleremo un po' di rifiuti in Italia, per vedere le cose italiane. I rifiuti cioè, l'immondizia. Ah no, credevo tu parlassi di quello di Vivendi a Premium e a Mediaset, no, oppure del fatto che il Milan si è fermato, ecco, si è fermato nella campagna acquisti, capito? Perché no, si è fermata la vendita del Milan, è stata rinviata di 15 giorni. No, la parola a Parisi, però, come coordinatore di Forza Italia Nuovo, si occuperà lui del rilancio della squadra del Berlusconi. Come no, tutto si tiene, tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Salvatore Padula. Per i dipendenti pubblici sta per aprirsi una fase destinata a ridisegnare il lavoro nella pubblica amministrazione. Ieri è stato avviato il confronto fra 13 confederazioni sindacali e l'ARAN, che è l'agenzia tecnica che rappresenta la pubblica amministrazione, e da questo confronto, da questo tavolo, è intervenuto anche il ministro Marianna Madia, verranno le indicazioni sia per il rinnovo dei contratti di lavoro che sono fermi da 7 anni, sia per il nuovo testo unico del pubblico impiego che dovrebbe arrivare a gennaio del prossimo anno. Tra le questioni sul tappeto, ieri si è discusso della necessità di rivedere i criteri del turnover nella pubblica amministrazione per garantire che le nuove assunzioni servano effettivamente per colmare le professionalità che servono alle amministrazioni. E poi è tornato il tema sempre attuale dei premi ai dipendenti, dove si è ribadito ancora una volta che non devono essere più distribuiti a pioggia. Vedremo se cambierà veramente qualche cosa. Sullo sfondo c'è il nodo delle risorse da destinare al rinnovo dei contratti. La dote disponibile attualmente è solo di 300 milioni per oltre 3 milioni e 200 mila lavoratori del pubblico impiego. Non a caso lo stesso ministro Madia ha spiegato che in autunno si valuterà, si cercherà di capire se ci sono maggiori risorse. Tema ovviamente molto caro ai sindacati, per i quali è positivo l'avvio del confronto sul rinnovo dei contratti, ma al tempo stesso denunciano che aumenti salariali di una manciata di euro al mese non sono cosa dignitosa dopo 7 anni di blocco. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, ci siamo, rimettiti le cuffie, forza, è inutile che pensi al Torino, che tanto anche quest'anno vincerà la Juve lo scudetto. E questo è noto, e anche per questo che Radio 24 infatti non ci rinnova il contratto. No, io inizierò d'ora in poi. No, devo dire una cosa. Non è che voglio fare un distinguo. Io non mi riguarda la cosa personalmente, perché sono più fortunato. Ma noi viviamo pericolosamente come ascoltatore. Ma il bello di Radio 24 è questo: non siamo la Rai con i maxi compensi tutti a vita. Noi siamo molti di noi sono a tempo, e come è giusto l'azienda ci tiene con il fuoco sotto il sedere fino al giorno dopo che devi ricominciare la trasmissione. Allora, va bene. Dai, si sistemerà tutto, confido. No, allora, no, è giusto che chi non è capace di fare il mestiere venga cacciato, questa è la mia idea. Non dirlo. Sentiamo meglio cosa ha da dirci Ugo da Bolzano, dai, che sennò ci deprimiamo troppo. No, io sono felice di tutto. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Volevo sollevare un quesito. Allora, parliamo sempre di Islam moderato. Sì. Sperando che siano effettivamente moderati, ma nel caso in cui il conflitto si propagasse, dovessero scegliere tra noi, tra virgolette, e loro, questi moderati da che parte starebbero? Siamo così convinti che siano così ben integrati nel nostro modo di vivere, per tutti i difetti che abbia, che sceglierebbero noi a loro? Perché no. Altrimenti sono una massa di bombe a orologeria, no, di cui non sappiamo né il nome, né il numero, né nient'altro. No, però noi esistiamo in quanto siamo stati capaci di far evolvere un modello, dopo che ci siamo scannati per millenni e scannati fino all'altro ieri, come ricordava il professor Luzzatto, tra di noi, proprio perché abbiamo iniziato a lavorare sull'idea che non si dovesse assimilare l'idea di integrazione all'idea di omologazione. Sai, io vengo da una città, Torino, in cui negli anni 60 quello che il professor Luzzatto descriveva negli ultimi 20 anni per i figli dei musulmani nelle scuole parigine valeva per i figli dei meridionali nelle scuole pubbliche di Torino. E questa è la nostra storia. Se ce lo dimentichiamo e crediamo invece di appartenere a una comunità di eletti omologhi che per millenni è cresciuta al riparo di questa convenzione, dimentichiamo la nostra stessa storia. È faticoso, significherà molte vittime. Questa guerra è una guerra che dice no all'erezione di stati laici nell'Islam, che dal Nord Africa fino all'estremo asiatico dell'Islam era invece predominante per decenni del Novecento. E penso che in questo credere di dire se non sei come me sei una potenziale bomba, quindi fuori, come dicono i politici populisti, sia secondo me un errore. Ma poi io credo che la maggior parte dei musulmani, lo ribadisco, il 99% non lo so, 99,9% siano proprio come noi, cioè, ma pensate che siano contenti di immolarsi, di morire da martiri per le famose 72, non so se sono 72, cioè, i milioni di siriani che hanno abbandonato il paese sotto le bombe, secondo voi da che parte stanno? Da chi gliele ha tirate? Non credo, no? Comunque, Claudio ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Claudio. Senta, volevo fare una domanda a tutti e due. Secondo voi, no? Allora, la soluzione quale sarebbe? Visto che quando voi parlate tante volte che sarebbero il gioco della Le Pen, sarebbero il gioco di Salvini o Trump che va al potere... Sembra quasi che questa gente, no, siano loro il diavolo e non diciamo altre persone. Io vorrei sapere il motivo per cui, voglio dire, dà tanto fastidio che queste persone poi parlino e dicano quello che dice la maggior parte del popolo. Cioè, sembra populismo, ma per me è voce di popolo, no? Non so poi per voi. Quindi voglio dire, infatti hanno, hanno un seguito politico anche non indifferente, Claudio. Appunto dico, però voglio dire, a questo punto, no, secondo voi, allora, una linea dura, io sono contro, come voi, assolutamente contro gli interventi, perché non servirebbero assolutamente a niente, ma... Cosa servirebbe fare? Costa di più controllare un braccialetto elettronico o un biglietto d'aereo per riportare quel soggetto a casa sua e lasciarlo lì? Ma sa, a casa sua, poi a casa sua rientra attraverso gli spostamenti e torna a casa nostra, sa, a casa sua. Poi casa sua qual è? Era francese, quindi casa sua... Le rispondo. Qual è? Costa di più quello che dice lei. Cioè, se pensiamo che all'8-9% di persone residenti in Italia, questa è la percentuale, non italiani, no? Stranieri, li prendiamo e li buttiamo tutti a mare, perché... quello costa di più di quello che invece propongo io, cioè durissima politica di accertamento e repressione preventivo, uno. Due, concerto internazionale nel mettere insieme risorse, non è vero, ogni paese sta continuando a fare per i fatti suoi la propria intelligence, non mettiamo insieme i pezzi, questo. Terzo, noi poi oltretutto, cari italiani, a cui piace molto, ai più duri di voi, piace il fatto che poi riservatamente i nostri servizi segreti sono in perenne contatto con le reti qaediste e terroriste dagli anni 70 per impedire che noi ci becchiamo gli attentati. Voi non volete gli attentati e siete favorevoli allo Stato italiano che tratta a differenza degli altri, e dall'altra poi, e io non sindaco su questo, i politici fanno il loro mestiere, e i politici per prendere voti, è ovvio che mille volte hanno detto nella storia che bisogna prendere milioni di persone e buttarli a volte in un deserto, a volte in fondo al mare, però nella storia di solito non funziona questa roba qua, ed è molto cara, molto costosa, sapete. Io sono duro, liberista, di destra, quello che volete voi, ma sono per soluzioni che funzionino, e cioè che non mettano altra benzina nel fuoco. Questo è perché se il fuoco lo voglio spegnere, se aggiungo la benzina è peggio. Sì. Allora, sono le 9:10, dobbiamo parlare anche di un altro argomento, ma chiamateci 800 24 00 24, i microfoni sono sempre aperti su anche il tema terrorismo, ovviamente. Però i rifiuti, i rifiuti, non solo il problema di Roma, caro Oscar, quando l'assessore Muraro, sai che ha fatto due giorni fa? Si è presentata all'AMA, l'azienda dei rifiuti, ha bussato senza annunciarsi e poi tutto in streaming, perché il Movimento 5 Stelle fa tutto in streaming, ha fatto una riunione chiedendo conto all'AMA. È strana sta cosa che in una strada alcuni vengano diciamo scaricati, c'è sempre un punto in cui non viene scaricato, sembra come dire lasciamogli il ricordo. Allora la tolleranza la dobbiamo fare per chi non paga quest'anno la Tari, perché il romano dice... Cioè è andata lì e ha proprio interrogato i vertici dell'AMA, gli ha chiesto ma come mai non raccogliete la spazzatura, eccetera. E infatti, come avevamo chiesto il presidente Fortini va via, come si è capito. Il presidente dell'AMA Fortini. Allora, vogliamo parlare del tema dei rifiuti, non solo a Roma, dove si parla, si vocifera, si dice potrebbe riaprire la discarica di Malagrotta, e Maglio Cerroni, il proprietario, dice dovrebbero ringraziare Dio che ci sono io. io, invece di boicottarmi con naturalmente su questo si innesta la polemica, tutti gli altri partiti attaccano ferocemente, esatto, 5 Stelle dicendo i veri amici di Cerroni siete voi. La sostanza delle cose è sempre difficile, esatto. La sostanza delle cose è che le aziende municipalizzate che no, gestite male perché hanno perso soldi, non hanno potuto fare gli impianti che realizzano il trattamento a ciclo chiuso dei rifiuti, creano non solo a Roma ma dovunque un problema in metà dell'Italia, sì. E c'è questo enorme problema perché poi c'è metà dell'Italia che deve esportarli i rifiuti, esatto. E c'è chi poi ovviamente ci guadagna, esatto. E questo ce lo spiegherà in qualche modo Filippo Brandolini, che è vicepresidente di Utilitalia, cioè la federazione che riunisce le aziende operanti e servizi pubblici di acqua, ambiente, energia elettrica, gas e quindi anche gestione dei rifiuti. Buongiorno Brandolini. Buongiorno. Grazie di essere buongiorno con noi a tutti. Con noi c'è anche l'assessore regionale alla Regione Sicilia che ha la delega anche sui rifiuti e l'assessorato all'energia, servizi di pubblica utilità, Vania Contrafatto. Buongiorno assessore, grazie di essere buongiorno a voi noi. Perché partiamo dalla Sicilia, perché in Sicilia la situazione, ha visto che come ha preso l'idea del sottosegretario di governo Faraone, che sappiamo con Crocetta non ha buoni rapporti, che però è venuto lì a denunciare con tanto di video, dire in Sicilia la situazione è un disastro, come l'ha presa l'assessore? Guardi, che in questo momento in Sicilia ci siano grandissime zone in cui insistono enormi cumuli di rifiuti è un dato purtroppo incontrovertibile, sì. e che in Sicilia in questo momento si assista al collasso del sistema che somma non solo i ritardi che si sono accumulati in questi anni nella realizzazione dell'impiantistica sul trattamento dei rifiuti, ma somma anche il ritardo nella chiamiamola così, nella governance, perché in Sicilia è un caso in cui ci sono due leggi che in questo momento coesistono. Una legge del 2010 che non è mai entrata a pieno regime, è un regime transitorio prorogato di anno in anno della vecchia legge, che ha creato un sistema di deregulation tale per cui ogni amministrazione totale e ogni amministrazione locale fa come vuole. In questo momento fa come vuole, creando questo di servizio nella raccolta e nello smaltimento, più raccolta e spazzamento che smaltimento. Ok, e che si fa? Cioè, voi siete una regione, per esempio, che li porta a Napoli, li portano in Olanda, altre città li portano altrove. Voi siete nella situazione di dover portare rifiuti in altre regioni? Allora, noi in questo momento operiamo in Sicilia sulla base di un'intesa con il Ministero dell'Ambiente. È la prima volta in Italia che si applica il quarto comma dell'articolo 191 del testo unico ambientale. Si è stretta questa intesa in cui si è calendarizzato un fittissimo cronoprogramma e tutta una serie di attività che deve porre in essere la Regione Sicilia per ritornare in tempi quanto più contingentati possibile a una situazione di normalità. Ma come? Cioè, ce lo spieghi questo? Ed uscire dall'infrazione comunitaria attraverso la realizzazione di questi impianti di trattamento dei rifiuti, attraverso la realizzazione degli impianti di compostaggio, ma anche attraverso la previsione di una nuova legge di riorganizzazione del settore, che è stata approvata in giunta 10 giorni fa e che ora approderà in ARS, nonché tutta una serie di sono oltre 100 punti, per questo nel frattempo i rifiuti dove vanno? Nel frattempo, per ora, i rifiuti, consideri che noi abbiamo una produzione di circa 6.000 tonnellate giornaliere, più di 4.500 riusciamo a trattarli in Sicilia. Proprio ieri si è concretizzata un accordo tra la regione Sicilia e la regione Piemonte, perché l'eccedenza di questi giorni va solo l'eccedenza rispetto ai questi 4.500 va da là, un'eccedenza che dovrebbe durare, rispettando il cronoprogramma, solo una decina di giorni, perché poi già da metà agosto tutto dovrebbe rientrare, dovrebbero entrare in funzione delle piattaforme di trattamento dei rifiuti che attendono il completamento proprio a giorni. Quindi insomma non dovrebbe più andare da metà agosto. Questo è un po' il problema. Però è un problema già in Italia, sud verso nord. E non ne faccio una questione antropologica, però è un dato di fatto che è così. È un dato di fatto. Non so, ci aiuta a capire qualcosa Brandolini. Ieri quando abbiamo letto che dalla da Napoli partono per Amsterdam, per l'Olanda, le navi, no, a portare i rifiuti. Non so se vogliamo dire che è colpa dell'Europa e dell'euro anche questo, alcuni magari lo scriveranno, ma non credo, ecco. Brandolini insomma ha sentito la situazione siciliana, sì. È questa, Roma forse la conosce ancora meglio, insomma è sotto gli occhi di tutti, è un business il rifiuto? Può esserlo un business? Sicuramente il rifiuto può essere un business, sicuramente deve essere un'attività industriale, non possiamo lasciarci andare a logiche troppo localistiche o di auto-organizzazione della gestione dei rifiuti. Perché questo? Perché in fondo l'avete già fatto emergere voi questo tema. La gestione dei rifiuti richiede un sistema impiantistico. Si parla molto di raccolta differenziata. La raccolta differenziata è fondamentale, è lo strumento più importante per favorire il riciclaggio dei rifiuti, ma a valle della raccolta differenziata servono degli impianti. Esatto, sì. Servono degli impianti per trattare la carta, la plastica, per poi avviarli effettivamente in riciclo, servono ancor più impianti per trattare la frazione organica, ovvero l'umido, per produrre compost e semmai anche del biogas che può essere trasformato in energia elettrica o in biometano. L'ultima situazione, diciamo, di crisi proveniente originata nella regione Puglia è legata al fatto che degli impianti di compostaggio hanno avuto delle problematiche autorizzative e la regione Puglia, gli operatori pugliesi hanno chiesto soccorso ad impianti in altre regioni d'Italia, ma la capacità impiantistica a livello nazionale è sottostimata rispetto alle reali necessità. Quindi quello poi è il problema, perché quando Napoli esporta ad Amsterdam i rifiuti, il che vuol dire che dobbiamo pagare, produciamo i rifiuti e dobbiamo pagare, cioè c'è una nazione, in questo caso l'Olanda, che guadagna sulla produzione della nostra immondizia. Perché è stata saggia investito, speculatori ignobili. Sono state saggia investite, è questo il problema Brandolini, cioè con chi se la devono prendere i cittadini che poi si vedranno aumentare, immagino, le tasse, perché dovranno pagare anche il fatto di far smaltire i propri rifiuti. Ma ce la si deve prendere con un sistema che non funziona, perché è evidente che nel momento in cui, non voglio parlare dei termovalorizzatori che sono parte in causa, ma sono diciamo un oggetto un po' più ingombrante, parliamo di un semplice impianto di compostaggio, c'è difficoltà a realizzare impianti di compostaggio, ci sono i comitati locali, ci sono contestatori, le amministrazioni temono di non riuscire a gestire il consenso. E quando va bene, succede come un mio collega che mi ha telefonato quasi felice l'altro giorno per dirmi che in Toscana, quindi stiamo parlando di una regione in cui la pubblica amministrazione funziona, in Toscana dopo 6 anni ha ottenuto l'autorizzazione per realizzare un impianto di compostaggio. Sei anni. Intanto i rifiuti noi continuiamo a produrre tutti i giorni. Si producono tutti i giorni, si devono andare a smaltire, speriamo che vengano smaltiti all'estero impianti fuori regione, non smaltiti attraverso pratiche illegali che poi sappiamo bene che comportano anche, insomma, problemi in sintesi, ambientali. Molta ipocrisia, un bel po' di ignoranza industriale e il trionfo della malversazione politica dei partiti sulla municipalizzazione. Cioè tre ingredienti di quelli che sono sempre un po' presenti in un mix diverso nel declino dell'Italia. Però vorrei dare anche un messaggio positivo, siccome non ci sono solo queste situazioni, ma ci sono tante regioni in Italia o tante aree, non solo nel nord Italia, che funzionano perché hanno saputo organizzarsi, hanno saputo realizzare gli impianti, hanno saputo confrontarsi con le popolazioni locali. Dovesse dare, hanno, senza dare i voti, però indicare qualcuna che secondo lei si è portata avanti nel migliorare questi fattori invece di debolezza che altrove rimangono forti? Ma guardi, Lombardia ed Emilia Romagna sono regioni che si possono confrontare con le regioni più sviluppate dei paesi del centro-nord Europa. Hanno elevati tassi di raccolta differenziata, hanno un sistema impiantistico sia pubblico che privato per trattare i rifiuti raccolti in maniera differenziata, hanno le discariche, sempre meno, e hanno i termovalorizzatori che consentono di recuperare energia da quei rifiuti non utilmente, non diversamente trattabili e recuperabili. Sì. Io vorrei tornare per un attimo dall'assessore regionale siciliano Vagna Contrafatto. Insomma, ci ha detto, assessore, che se tutto va bene noi la prendiamo in parola, a metà agosto partono quegli impianti di compostaggio che permetteranno di sospendere l'invio di rifiuti in Piemonte. Per il momento però la regione spende, c'è anche una quantificazione della cifra di quanto costa ai siciliani che la stanno ascoltando il fatto di dover smaltire portandoli via nave i rifiuti in Piemonte? Ma in questo momento a loro non costa niente per un duplice ordine di ragioni. Uno, perché ancora non è stato portato nessun carico fuori, perché come ho detto l'intesa si è concretizzata ieri e non è ancora divenuta operativa. Lo sarà a giorni. Due, siccome stiamo facendo questo trasporto che chiamiamo straordinario, perché ripeto riguarda solo le quantità eccedenti, sì. Si sta utilizzando le economie di gara di un residuo di una vecchia ordinanza commissariale emergenziale, sì, che ci fu in Sicilia qualche anno fa, il cui budget è stato utilizzato proprio per realizzare questi impianti di trattamento meccanico biologico, non di compostaggio, sì, come ha detto lei poc'anzi. Sì. E siccome ci sono delle economie da questi progetti che come ho detto sono stati realizzati e sono in via di avviamento materiale, sarà utilizzato questo fondo per però assessore, mi scusi, perché sono sempre soldi, cioè avreste potuto usarle per fare una cosa, non è che esistono fallimenti gratis, mi pare. Esatto, erano delle somme vincolate a uno scopo, cioè il superamento dell'emergenza rifiuti che fu dichiarata nel 2010, quindi si potevano utilizzare solo per quello. Potevano essere utilizzate solo per la realizzazione di quegli impianti, ovvero per il miglioramento di quegli impianti. Ma siccome quegli impianti stanno partendo adesso e stanno partendo da progettazione al meglio della progettazione che è stata fatta, queste economie sono state destinate per questo. Non erano dei fondi vincolati, risponde, solo per emergenza a rifiuti potevano essere utilizzati. Che risponde, sempre al sottosegretario Faraone, che dice ci vorrebbe un commissario in Sicilia, bisogna commissariarla dal punto di vista della gestione dei rifiuti, ovviamente. Guardi, è indubbio che un commissario con dei poteri straordinari, soprattutto acceleratori e derogatori di alcune regole amministrative siciliane, perché noi in Sicilia, pur essendo pirandelliani, riusciamo ad allungare qualsiasi tempo. Quindi se in un'altra regione, come sentivo, ci vogliono un'autorizzazione, avete l'autonomia speciale 8. Per non avere l'ordinamento italiano, e poi mi dice che ci vuole il commissario. Lei sta parlando con una persona che ha delle idee particolari sull'autonomia speciale però mi permetta di dire, siccome io rispondo in qualità di assessore tecnico, sono un magistrato, capisco. Le mie idee politiche le va lascio bene, nella, però lo dico solo assessore, i nostri ascoltatori nel resto d'Italia, siccome ci sentono spesso dire ma questa autonomia è speciale, proviamo alla prova dei fatti, un debito lasciamo perdere, un'inefficienza lasciamo perdere, la quantità di dipendenti pubblici in proporzione alla popolazione lasciamo perdere rispetto a tutte le altre regioni. Adesso arrivati al punto dei rifiuti, ci ha detto fondi di 6 anni fa per emergenza rifiuti, benissimo, i pianti partono adesso, li utilizzate, benissimo, e ci dice Faraone, forse quando dice che ci vuole un commissario che accelera tutto perché ha poteri straordinari, avercelo, allora per santo Dio, capisco che lei non lo vuole dire, lo dico io, però forse abbatterla e sostituirla con un regime diverso, questo, autonomia speciale, che è scudo di inefficienza, perdonatemi, e lo dico senza mancare di rispetto a generazioni di autonomisti, cioè di fatto è così, ecco, forse questo è un pezzo del problema. Però insomma, l'assessore ci sta dicendo non che lo vuole dire, lo, no, dico cioè, io, lo lascia le considerazioni private, capisco, però aggiungiamocelo, perché sennò non facciamo altro che erigere in questo paese successivi livelli di successive deroghe. Beh, allora già si deroga l'ordinamento italiano, deroghiamo anche all'autonomia speciale con un commissario, non lo so, vediamo, invitiamo i seleniti Brandolini, ecco. Siccome la Sicilia non è l'unica regione a statuto speciale, c'è la Sardegna, il Trentino, la Valle d'Aosta, c'è in quelle regioni lo statuto speciale, nel lavorare con quelle regioni si nota una discrepanza da questo punto di vista sul ciclo dei rifiuti, oppure no, Brandolini? No, direi che non ci sono grandi differenze. Ci sono regioni come il Trentino Alto Adige, che è una regione molto virtuosa, che potrei associare a quelle che ho detto prima, così come la regione Friuli, che pure gestisce virtuosamente i rifiuti, ma anche le regioni statuto ordinario hanno dimostrato di poter essere in grado di gestire i rifiuti. L'importante quindi non è tanto la natura dello statuto regionale, l'importante è che le regioni si siano dotate di strumenti di pianificazione, abbiano fatto delle scelte, abbiano organizzato il servizio di concerto con gli enti locali e possibilmente in un confronto trasparente con le popolazioni locali. Non è facile, ripeto, non è facile in Toscana, come non è facile in Emilia Romagna e Lombardia, però va fatto. Però competenza e rettitudine già sono, si porta avanti. Poi la sindrome NIMBY c'è ovunque, no? Quella not in my backyard. Va bene, noi ringraziamo Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia, e l'assessore Vania Contrafatto, a quale mi lasci fare una battuta, perché un ascoltatore mi ha mandato una cosa fulminante, questo ascoltatore ci prega di esprimere le nostre personali solidarietà, ma non ne ha bisogno, all'assessore, perché dice un assessore magistrato che si chiama Contrafatto deve essere dura per nella vita. Eppure, guardate, è magistrato e assessore. Allora, guardate che allora per chiudere per fare contento il vostro ascoltatore, io mi sono occupata per 15 anni di criminalità economica alla Procura di Palermo, tra le quali sarà anche la contraffazione. La contraffazione, quindi proprio abbiamo chiuso il cielo. Lei si è resa ancora più forte proprio perché nome. Abbiamo chiuso il cielo. Però consenta di dire con una sola S, con una sola S, certo. Il vecchio brocardo latino, contrafactum, non vale st'argomento. Eccelso, dottoressa, eccelso. Lei è ironica e ci risponde col brocardo, quindi vale la pena parlare con lei. Vale, va bene, la ringraziamo davvero, buona giornata. Ci sono gli ascoltatori che ci chiamano sul tema principe con cui abbiamo aperto questo, no? Fabrizio da Pesaro, sì. No, Fabrizio da Pesaro non c'è, Paolo da Venezia? Paolo da Venezia, sì. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti, bravi. E niente, una domanda su questa idea. Olanda ha detto più volte ormai che siamo in guerra, e pare che è una guerra. Perché se è un'idea assurda pensare di applicare il codice militare di guerra nei riguardi dei terroristi o dei presunti o sospetti terroristi? Ma sa dove lo applica? In tutta l'Europa, perché è una guerra strana, colpiscono qua, là, a Monaco. Sono d'accordo, sono d'accordo. Non è una cosa facile, perché stiamo parlando di un problema epocale, ma era un'idea così. Paolo, però bisognerebbe a quel punto essere d'accordo sul fatto che si applica per tutti, non si può fare una selezione per appartenenti a comunità, cioè anche gli italiani, lei lo sa che se ti proponesse una cosa simile tutti ci tirerebbero le pietre dicendo siete matti. Ecco, questo per d'accordo. Dire quindi no, cercare di restringere magari su una fascia diciamo con dei sospetti seri, con dei sospetti fondati, con degli elementi abbastanza concreti, chiaramente non a pioggia così in maniera indiscriminata. Io sono dell'idea, sono convinto che l'idea così detta così è no, però per essere chiari, se lei mi chiede Oscar Giannino è favorevole a un regime per cui per tutta una fattispecie di reati di sostegno a reti, cedule, atti eccetera eccetera di terrorismo di tipo islamista eccetera eccetera, modificare e restringere un po' alcune delle garanzie previste oggi dal codice di procedura penale qualunque sia la nazionalità degli indagati, la mia risposta è sì a questa domanda, però a questa domanda, non al codice penale militare di guerra. Sì. Allora, ci chiama Enrico da Roma. Buongiorno Enrico. Buongiorno a tutti. Salve, senta, sarò breve e non ridete, per favore. No. Per quanto riguarda i topi, perché a Roma, non soltanto a Roma, ce ne sono a milioni, sì. La cosa più importante, secondo me, dopo una buona deratizzazione, sì, bisogna inserire nelle fogne e mettere nelle fogne un certo numero di rospi giganti. Ci sono una razza di rospi che sono molto più grandi dei nostri, per capirci, sì, che puliscono tutto. Cioè, se mangiano i topi. Se mangiano i topi, non solo, ma ci campano pure bene nelle fogne. È il loro ambiente, il loro habitat. No, davvero, questo lo so dire. Io... stanno in un altro paese, vivono in particolare in altri paesi che non mi ricordo quanti. Poi gli basterebbe prenderli dalle periferie a buttarli nei loro fognoli. Blatte, topi, fanno una pulizia radicale. Il problema è poi che fa, sì, ma ho capito, ma poi non è che si trasformano anche loro in rosponi. Ma no, e abbiamo l'invasione dei rospi. Ma no, Enrico ha ragione. Dopo anni di aver pulito le fogne, i rospi si candidano alla politica. Quanti politici rospi abbiamo avuto? Aveva detto di non prenderlo in giro. Ma non lo prendo in giro, perché io voglio prima che faccia quello che dicono Enrico, e poi dopo tu mi hai chiesto che ne facciamo. Abbiamo tanti rospi in politica, abbiamo almeno alcuni che hanno pulito le fogne. Enrico, io mi fido ciecamente, però è chiaro, se poi dopo tra 5 anni ci troveremo col problema dei rospi, dei rosponi giganti in giro. I rospi poi non escono dai fognoli, quindi non stanno più a fiume. Se ne stanno tra loro. Quando vedono lì un modo di vivere così. Poi per quanto riguarda invece la residenza urbana, io dico una cosa, ci sono degli stati, mi sembra che mi risulta in Israele, che fanno una selezione naturale di tutti i prodotti senza stare a crearsi il problema del camioncino che porta l'umido, l'altro camion che passa quell'ora e la casa che si deve conservare. Una selezione naturale, cioè fatta, automatizzata come una specie di desalinizzatori, dove buttano tutto insieme, poi i corpi vengono mano a mano espulsi e radiati in forma automatica. Vabbè. In un grande ambiente come questo, specialmente come a Roma, sarebbe si una potrebbe cosa fare. Vabbè, io non sono esperto, Enrico, fermiamoci ai rospi, perché devo elaborare questa dei rospi giganti. L'altra bellissima idea, vedi? Bellissima idea. Andiamo alla Raggi, i rospi. Rosponi giganti. Va bene, dai, ci dobbiamo fermare qui con Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione. E ancora per poco, perché poi senza contratto Oscar Giannino che vi saluta. Dai, a domani.